Prima di iniziare, un avvertimento all'ascoltatore. Marmocchio è un cattivo esempio. Marmocchio non è Pinocchio, anche se gli somiglia. Ascoltandone le gesta potreste imparare ad essere maleducati e disubbidienti, e i vostri genitori non ne sarebbero affatto felici. Beh, noi la sua storia la raccontiamo. Sta a voi decidere se ascoltarla o no. Come andò che Geppetto il marmista trovò un pezzo di marmo che sghignazzava come un bambino impertinente. Questo pezzo di marmo capita proprio a fagiolo. Cos'è questa vocina? Sembra che venga dal marmo. Ma si vede, me la son figurata io. Eppure io sta vocina la sento. O che davvero sto pezzo di marmo abbia imparato a ridere come un bambino? Eh sì, qui c'è proprio una bella boccuccia che non aspetta altro di parlare. Che vuoi dirmi, bella boccuccia? Come? Brutto screanza! Ma guardate se questa è la maniera di rivolgersi a un adulto! Smettila! Smettila subito, eh! Fammi le braccia! Nemmeno per sogno! Su via, signore, ti prego! Fammi le braccia e non ti mancherò più piume e più di rispetto! Lo giuri? Lo giuro, lo giuro, lo giuro! Eh sia. Eccoti le braccia! Che? Che? Che mi fai? Il gesto dell'ombrello! Smettila subito! Ti ordino di smettere! Basta! Ti lascio il computer! Così impari! No! Come faccio senza le gambe? Voglio le gambe! Voglio le gambe! Un telefono! No! Un telefono! Sei venuto troppo male. Non meriteresti nemmeno un nome, torto me sei. Ma un nome non lo si nega nemmeno a serpenti. Sei fatto il marmo! Ti chiamerò Marmocchio! Marmocchio, sì! Marmocchio, bambino! Che fai con quegli attrezzi? Mi faccio da solo, bambino. Guarda, guarda che belle gambucce scattanti. Fermo, fermo! Non saltare sul letto, lo sfondi! Dove vai? Lì c'è la credenza! Attento a piatti! Dio santissimo! Attento, attento! La finestra! Dove vai? Il mio motorino! Ladro! È finita la benzina. Male, ragazzo mio, male! Ma ti rendi conto di quanti danni tu hai fatto in una notte sola? Bisogna che ti sfaccia! Bisogna che ti sfaccia! Bisogna che ti sfaccia! Come sei duro, figliolo! E sai, ti scalfisco, eh! Oh, com'è possibile? Vorrà dire che ti butterò nell'acido muriatico. Una notte a mollo ti leverai i grilli dal capo. Come andò? Che Marmocchio vide sciogliersi la sua coscienza in una vasca d'acido muriatico. Questo acido non mi dispiace per niente. Non t'agitare, picciotto. Mi scusi, non sapevo che la vasca fosse occupata. Figurati, ci possiamo stare comodamente in due. Chi è lei? Sono la tua coscienza. Chiamami Grillo. Va bene, Grillo. Non sapevo di avere una coscienza. L'avrai per poco, ragazzo. Quest'acido non mi giova per niente. Mi sto sciogliendo. Oh, mi dispiace. Ma com'è finito qui? Un regolamento dei conti. Sarebbe troppo lungo spiegarti. Ma io sono proprio curioso. Fai silenzio e ascolta. Vai a quei picciotti che si ribellano ai loro genitori. Potrei avere una sigaretta anch'io? Tieni. Non avranno mai bene a questo mondo. E prima o mi poi... Mi fa accendere? Vorrei finire, picciotto. Il mio tempo sta terminando. Oh, sì, mi scusi. E prima o poi? E prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Hai capito? Sì. Ah, mi raccomando. Sei di marmo. Hai delle responsabilità. Lo sai che i pezzi di marmo possono trasformarsi in opere d'arte? Lo ignoravo, signore. Ma attento. Se non ti comporti bene... potreste diventare uno scalino. E tutte te calpesteranno. È chiaro? Sì, signore. Addio, picciotto. Sono quasi sciolto del tutto. Come andò che Geppetto, stanco delle monellerie di Marmocchio, risolse di disfarsene definitivamente. Marmocchio! Dimmi, babbino! Vediamo se la notte nell'acido muriatico t'ha ammorbidito un po'. Ho di sicuro m'allevato i grilli dal capo, babbino! E ti viene più voglia di spennacchiarmi? Spennacchiarti? Sì, spennacchiarmi, sì. Con le pernacchie? Sì, con le pernacchie, sì. Con le pernacchie... Con quelle, sì! No, babbino. E non ti viene nemmeno più voglia di farmi il gesto dell'ombrello? Quale, babbino? Il gesto dell'ombrello, Marmocchio! Quello tiè! Quello, sì! No, babbino. Sembri davvero ravveduto, ragazzo. Sì, babbino, lo sono. E nemmeno ti salterò più su questo lettaccio brutto e porcoso. E nemmeno ti fracasserò tutti i piatti che ha in questa lurida credenza. E nemmeno ti frantumerò il vetro della finestra che hai appena fatto riparare. E non ruberò nemmeno il tuo ciclomotor. Dov'è il motorino, babbino? L'ho nascosto, perché fidarsi è bene. Non fidarsi gli è meglio. Marmocchio, tu sei la mia disperazione! Basta! Dove mi porti, bambino? Dove t'ho trovato? Andiamo! La sega a nastro gli ha fatto vento, il martello pneumatico il solletico, l'acido muriatico l'ha rinfrescato. Un resto è provare la dinamite! Eccoci arrivati! Sembra una cava di marmo, babbino! Ma che? Che ne sai te di cave di marmo? Questo gli è il gran teatro dei sassi di Mangiafochino! Ora te tu stai qui, buono bonino, che tra poco inizia lo spettacolo! Pericolo esplosioni! Babbino! Pericolo esplosioni! Chi te l'ha detto? L'ho letto su quel cartello lì! Male, ragazzo mio! Te tu non dovresti saper leggere! È colpa mia se oggi per l'appunto so leggere, scrivere e fare di conto. Babbino? Babbino? Babbino! Oh, dove è andato? Guarda! È lui! Marmocchio! Chi parla? Noi! Siamo qui! Toh, due sassini parlanti! Che siano gli attori dello spettacolo! Scappa, Marmocchio, scappa! Oh, bella! E perché dovrei scappare, miei cari sassucci? Il mio babbo mi ha detto di stare qui a vedere lo spettacolo. Quale spettacolo? Di quale spettacolo stai parlando? Questo non è un teatrino, Marmocchio! Sotto uno di noi, Mangiafochino piazzerà le mine! E ci farà saltare per aria! Uno di voi? Sì! Wow! Ma se ti troverà qui, farò saltare anche te! Che ci provi? Lo concerò per le feste! Davvero, Marmocchio? Vedrete! Prima lo svertuccerò con la mia specialità pernacchiosa! Sì! Seguita da una bella smitragliata di gesti dell'ombrello! Che? Gesto dell'ombrello! addosso una secchiata di male parole. Male parole! Sono contento, Sassucci, che vi piacciono i miei modi. Sei la nostra salvezza, Marmocchio! Sarà la fine di Mangiafuochino! Sarà il nostro eroe! Sarà il nostro eroe! Sarà il nostro eroe! Shh! Che c'è? Sentite! Che silenzio! Mosasomba, Mosasomba, Mosasomba! Ah, che bellezza! Che stai venuto proprio buono, vi? E mamma voglia proprio divertire con una chisti sassolina. No, no! Prima un po' cammina a chi tocca. Uè! E tu non riesci fuori? Buonasera, signor Mangiapochino. E un compagno vostro sto pupazzo di marma? Sì, sì! E brava! Avete fatto proprio buona a portare pure a issa. Come ti chiamo, aglio? Marmocchio, signore! Marmocchio. Si è marmo e ti chiama Marmocchio. Sa se avete capito la battuta. È di marmo e si chiama Marmocchio. Marmocchio, fa qualcosa. Sì, sì, me la batto. Che è male parole a voi, ragazzi. Addio. Ferma, Roma. Scappo. No, e perché? O marmo, quando scoppia è una meraviglia. Mettiti insieme ai compagni tuoi, che se siamo fortunati la mina capita proprio a te. Ammaramacci ciccocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore. Signore, ma con io non la ce l'ho, sono stati loro! Voglio a così mi facete perdere lo conto! Ammaramacci ciccocò, tre civette sul comò, che facevano il coccruna da zumba! Non ci sta niente a fa! Hai fatto pure la rima. Ma io non c'entro niente, signor Mangiafochino. Sono stato messo in mezzo da questi sassaggi. Non è vero. Sì che è vero. Ora fanno San Pietrini. Ma prima volevano che vi prendessi a pernacchie, approfittando della mia bella boccuccia aggraziata. Ah, è così? No. E che vi facessi il gesto dell'ombrello con le mie bracciucce. Tiè, tiè. Che brutta cosa. E non l'avessi mai potuto supportare. Traditore. E che vi chiamassi, vista la mia scienza in male parole, scemo, cretino, caccoloso, caccoso, idiota e rospo puzzone! Non è vero! Tantemi zitto tutte e due! Oggi sentite già troppi schifezzi! Ma avete spezzato il cuore! Siete scostumati e maleducati! Grazie, Marmocchio! E mo va a te! Signore, non avrei diritto ad una ricompensa? Sapevo che il tradimento pagava di molto, ma di molto bene! Ma tu guarda a Kist. Pigliate sti sordi e va a tenna. Ah, grazie, grazie. E mo metta la mina sotto una e buia. Ambarabacci ciccocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci ciccocò. Basta, signor Mangiapochino, non conti più. Voglio saltare io per salvare il mio amico. No, io voglio la mina. Lui deve vivere. Mamma mia, che sentimento che tenono questi sass! E mo che faccio? Si scoppia una che la te chiagna e non ho posso proprio supportare. Signore, signore, con una mancetta extra potrei togliervi io dall'impaccio. Ovvero? E come facessi, sentimmi? Prima la mancetta. Puzza passano aia. To! Onde evitare l'imbarazzo della scelta, da che di sassi io ne vedo due, sceglierei da accoppiarli, minarli e saltarli insieme affinché giustizia sia fatta! Vigliacco! Traditore! Vabbè, faccia così! Mo vattene in da sta cava che è pericolosa, che scoppi tutto cosa! Ma io voglio vedere l'esplosione! No, è vietata! Ma saltano i miei amici! Taniai! Vabbè, me ne vado! Ah, signor Mangiafochino! Ha già venuto ai sordi! E come sto rovogliato! Eh? Come andò che Marmocchio incontrò due birbi quasi più birbi di lui e con loro si mise a gareggiare in birberia. Totto, se questo non è quel tal Marmocchio nato dallo scalpello del cavator Geppetto. Dove ti portano quelle gambette sbilenche e marmagliose? La gradiresti una smerigliatina? Se di spigolinai tu, polveroso eunuco. Eunuco? Com'è che sapete il mio nome? Se d'altri non si parla che di te nel gran tran tran di questi giorni pigri. Di me? Di te, caro fratello, di te. E di Bige se ne dico sul tuo conto. Su quel tuo io, ahimè, così pietroso. Su quell'educazione che ti falla. E su quella borsuccia che ti pesa. Vado dal vecchio padre, per l'appunto, a dargli questi soldini che ha regalato mi ha Mangiafochino Aurora. E che ne fa il bambino di quei dindi? Che ne fa? I soldini fanno sempre comodo, da che mondo è mondo. Difatti anche noi ne abbiamo tanto, tanto bisogno. Dai qua! No! Ma perché i miei soldi dovrei elargirli a voi? Sarebbe un investimento, burattino. E di quelli vincenti? Stai sicuro? Forse, forse... perché conoscete un modo per moltiplicarli? No, no, no. Non ci siamo, marmocchietto bello. Perché conoscete un terreno fatato in cui seppellendoli... No, nessun terreno fatato. E allora perché magari conoscete il cavallo che vincerà le corse? No, niente corse. E allora perché? Perché cosa? Perché dovrei darvi i miei soldi. C'è un perché del fatto che deve darci i suoi soldi? Nessun perché. Nessun perché. Perché? Perché, perché, perché, perché, perché, perché? Filosofeggi tu, mucchio di ghiaia! Perché così ci va? E più non far motto! Ma allora, questo è un furto? Una grassazione? Un'estorsione? E voi... siete dei malviventi! Ti sbudelleremo! E ti impiccheremo al ramo di un albero! Oddio, sarei già scappato a gambe levate se non provassi verso di voi un'irresistibile attrazione! Miei pianeti sarò il vostro minuscolo satellite! Eccovi i miei soldi, guadagnati al prezzo di alti tradimenti! Fate di me quello che credete, se riuscite a non ammazzarmi è meglio. E se poi mi prendeste con voi nei vostri stimolanti ladrocini, sarebbe addirittura... fantastico! Ma senti che pretese questo pezzo di marmo. Perché dovremmo prenderti con noi? Per poi spartire in tre, anziché in due. Ah, signori, mi offendete? Ogni mia malefatta è totalmente disinteressata. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Dunque sei cattivo? Cattivissimo, signore, e per natura, senza alcuno sfarzo o artificio. Hai coscienza? L'avevo, ma è stata sciolta nell'acido, pace all'anima sua. Sei un duro. Come il signore, sia nel comprendonio che nel carattere, signore. Beh, allora sarai dei nostri. Ma bada a te. Alla prima che ci fai. Non ve ne pentirete. Oddio, oddio, oddio. L'idea della malazione mi tenta, mi tenta, mi tenta. Grazie, grazie. Ci incontreremo tra una settimana all'albero degli assassini. Come andò che Madre Natura condizionò a tal punto il monellaccio da portarlo sulla retta via. Farò una malazione. Marmocchio! Prendi questo! Questo e quest'altro! Chi è? Chi è che mi chiama? Prima si dovrebbe dire chi è che mi chiama e solo dopo, eventualmente, rispondere male. Signora Volante, io sono fatta all'incontrario. Ti vedo, infatti. E la vedo anch'io, signora. Lei è così, così, così volante. Come fate a volare? Sono leggerissima, Marmocchio. Oh, il contrario di me che sono pesante. So che sei una birba, Marmocchio. Obbligatissimo, madame. Credo che sia l'ora che tu diventi un bambino per bene. Oh, sarebbe un peccato, signora. Così portata come sono alle scorribande. Non preoccuparti, caro Marmocchio. Non è così difficile ravvedersi, sai? Se lo dite voi. Guarda. Oh, una gentil farfalletta. Come sono andato? Non benissimo, caro ragazzo. Riproveremo. Guarda. Oh, un passerottino. Non c'è più ora, signora Volante. Lo vedo, Marmocchio. Dovreste farmi comparire qualcosa di più sostanzioso. Che ne pensi di questo? Wow! Questo è fantastico! Tutto colorato! cos'è? Si chiama pavone. Pavone? Sapete cosa gli farei io al pavone? Io gli staccherei ad una tutte quelle belle piumette colorate e poi ne farei un bel mazzetto consistente. Dopo averle fatto con questo bel mazzetto consistente, io glielo infilerei su per il... E poi lo sparpicherei con il suo... E poi lo stanfrugolerei, impastato, lo trasformerei in un... saprei davvero che cosa fargli. Ho esaurito il repertorio. Guarda, Marmocchio, oggi è il tuo giorno fortunato. C'è un altro pavone. Ah, immagino che dovrò darle di santa ragione anche a lui. Guarda, è arrivato un altro pavone e con lui ci sono tanti altri uccelletti. Oh, tutta questa uccellagione mi darà un bel da fare. Io non vorrei deludervi, signora, ma io non credo di riuscire a massacrarli tutti. Oh, Marmocchio, guarda quanti uccelli stanno arrivando. Si deve essere sparsa la voce. Cari uccellini, mi lusingate, io li estinguerei volentieri, ma ho due mani sole. Questo mi ha dato un beccotto. E tu rendiglielo, Marmocchio. Ma come faccio? Quel groviglio di piume è volato. Se lei, signora, che nell'alto dei cieli me lo tenesse fermo. Non mi è possibile, purtroppo. Aia, mi beccano, signora. Oh, ne arrivano davvero di tutte le specie. Cosa dici? Aiuto! Imbuto? Ma che imbuto? Aiuto! Mi sgretolano quegli animali! Rari, sì! Come quei bei pappagalli dal becco tutto colorato! Così coperto di uccelli, sembri una statua nella piazza di un paese, Marmocchio! Signora, la prego, mandi via questi uccelli! Aia! Diventerò buono, signora! Non sarò più allo scherzato che sono stato finora, te lo giuro! Rispetterò il mio babbo, andrò! Credo sia cacca d'uccello, Marmocchio. Mi pareva cacca, ma non volevo dire quella brutta parola. Come andò? Che Marmocchio, ormai ravveduto, si trovò per caso nei pressi dell'albero degli assassini e di qui cominciò a pagare tutte le sue malefatte. Bene. Puntualissimo. Oh, mi avete spaventato. Siamo noi. Oh, sì, certo. E questo arbusto secco, mi immagino essere l'albero degli assassini. Appunto quello. Allora sei pronto, Marmocchietto? A far che, cari fratelli? Come a far che? A rapinare. A estorcere. A grassare. Che hai, Marmocchio? Sapete, mentre voi parlavate di queste belle cose, mi veniva l'acquolina in bocca, ma al contempo anche un gran malesserino qui. È assai strano in un pezzo di marmo. Strano, ma vero, ed è insopportabile. Non vi auguro mai di provarlo, voi che siete così spensierati. Oh, poverino. Oh, grazie, fratelli, per la vostra compassione. Ma ti immagini, tra noi, marmocchio caro. Davanti a un compagno infortunato, noi ci facciamo volentieri in quattro. E anche in otto. Troppo buoni. Com'è che sei così? Non lo so davvero. Stamani mi sono svegliato così. Così? Così. Così. Oh, sì, sì, così. Sì. E ora metterò di buon umore anche voi altri. Guardate, guardate che buffa espressione vi faccio. Beh, perché non ridete? Che ne dite allora di questa buffa, buffissima piroetta? Non è di vostro gusto? Non mi resta che usare la mia arma segreta! Ta-ta-ta! Cos'è quella roba biancastra che hai addosso, marmocchio? Cacca! Cacca! Perché non ridete? Non si può non ridere delle robe di cacca! È cacca! Sono pieno di cacca! Yuhu! Ci siete? Tutti i volatili del bosco mi hanno cacato addosso! Se non ridete avete qualcosa che non va, ragazzi miei. Dovreste consultare qualcuno. Che ne dici di ripulirlo un po', fratellino? Oh, sì, sì. Che volete farmi? Niente, marmocchio, niente. Solo buttarti nel fiume. No, no, no! Come andò che Marmocchio ritrovò in fondo al fiume il fantasma del grillo, che da buona coscienza, seppur defunta, lo seppe ben consigliare. Ci rivediamo, picciotto. Ah, e com'è che ti trovi sott'acqua? Io bene, grazie. Anche se ti confesso, la terraferma mi manca. Se non avessi questo peso attaccato ai piedi, farei volentieri una passeggiata. Ma lo porteresti tu? Bravo, picciotto. Attento, è pesante. Vieni, usciamo da questa parte. Sono contento anch'io, marmocchio. Ma che ci facevi in fondo al fiume? Niente, hanno tentato di farmi fuori. Un'altra volta? Ma eri già morto. Ho provato a spiegarglielo, ma quelli niente. E tu, che mi racconti? Ti racconto che sono diventato buono, Grilluccio. Ah, davvero? Bene. Ma che le occasioni per fare buone azioni, ahimè, scarseggiano. Sì. Sì. Il mondo non è più quello in cui sono morto la prima volta. No. Beh, non ti scoraggiare. Vediamo se ti posso dare una mano. Oh, sarebbe fantastico, Grilluccio. Ci vorrebbe qualcheduno in difficoltà. E se non c'è, ce lo mettiamo. Guarda laggiù. Dove? Laggiù, laggiù. Ti ho trovato subito qualcuno a cui fare del bene. Quel sasso là? Appunto, quello. Bene, bene, bene. Facciamoglielo subito questo bene, non pensiamoci più. Ma come faccio? Toglilo da quel pendio dal quale potrebbe cadere. E dove lo metto? Ripolino lì, sul piano, accanto a quell'altro. È vero, ce n'è un altro. Sembrano morti. Forse lo sono stati. Ti bacio le mani, picciotto. Torna a bagnomaria. Addio, Grilluccio, e grazie. Mi sento tutta eccitata all'idea di fare del bene a questi sassi. Vorrei incontrare tutti quelli che stanno male per poterne alleviare le pene. Oddio, fa che siano tanti i sofferenti del mondo. Sassuccio? Chi è? Ai, ai, ai, questo sasso non mi è nuovo. Niente, mi scusi, ho sbagliato. Parlava questo suo collega qui. Sassolino? Sì? Oddio, oddio. Ma questi sono quei sassi che Mangiafochino ha fatto saltare. Meglio battersela. Guarda, guarda chi c'è. Il marmocchio. Quello che ci ha fatto saltare in aria. Quello che ci ha traditi. No, aspettate, fatemi parlare. Fui truffaldino in passato, ma ora sono pentito. E sono qui a fare del bene. Ah, sei qui a fare del bene? A fare del bene? Sì, sì, a fare del bene. Questo non sai come ci rallegra. Vieni, vieni. Dove mi portate, cari sassucci? Siediti qui, marmocchietto bello. Oh, grazie ragazzi. Siete proprio ospitali. Sono sicuro che la mia presenza ridenta vi ha fatto un gran bene, non è vero? Come no, come no. Che nostalgia, i bei giorni felici. Passami la dinamite. Tieni. Che ci avete lì? Gesto dell'ombrello, gesto dell'ombrello. Già. Che risate, eh? Che cari carissimi ragazzi. Chi la fa l'aspetti, marmocchiaccio? Sante parole. Oh, ma che... Aiuto! Aiuto! Oh, hanno piazzato la dinamite! Aiuto! Oddio, oddio! Salterò in aria! E poi cadrò! E poi sicuramente morirò! Oh, non è mio. Ma questo è... Mangiafochino! Mangiafochino! Ma... com'è che sei tutto nero e fumante come un tizio di carbone? Ma allora sei saltato tu! Ma allora... ecco! Ecco perché sono ancora tutto intero! Ah, marmocchio! Oggi incontrate ma via che gli ruisasse fatiente! E m'hanno fatto zumbare in aria! Ma oggi solo morivo, io sto combinato proprio malamente! Povero Mangiafochino, ne ho per poco anch'io, sai. Guarda, sto per saltare in aria. Quei due sassi si sono vendicati anche di me. Sono proprio contento. Mangiafochino. Vorresti fare un'ultima buona azione prima di morire? Lasciami in santa pace, voglio... Me la spengi questa miccia? E perché? Così mi risparmio di saltare in aria. E perché non volessi zumbare in aria? Per non morire. Ah, e ti pare una bella cosa che abbiamo un'isolia? No, a dire il vero. Ma per te ormai non c'è più nulla da fare. Appunto. E se non spengo la miccia non ci starà niente da fare manco per te. Addio, marmocchio. Ti prego, mangia pochino. E fammi morire in santa pace. Se non tenesse tutte e due le braccia spezzate, ti facesse il gesto dell'ombrello. Se campo ti aiuterò, te lo prometto. Ma io non voglio essere aiutata da te. Potrei chiamare un dottore. Preferisco a morire. No, ti prego, non morire. Sì, sto morendo, che bellezza. Ha già appena fornuto di respirare. No, no. Sì, sì, sono già morto, voglio. Se sei morto, perché parli? Perché sono poco a qua e non poco a là. Torna di qua, Mangiafochino, ti prego. Non torni in davanti alle lacrime, sto morendo. Ti supplico. Ah, sono morto. Davvero? Sì. No, Mangiafochino. Io sono stato buono dopo il tuo trattamento, buonissimo, e ho cercato di fare solo buone azioni. Io non merito di saltare in aria. Ti prego, aiutami, aiutami. Ma perché non zumbam? Ma tu vuoi vedere che si è spenta? E Marmocchio, invece di morire, si limitò a crescere. Marmocchio! Ciao, bambino! Avete ascoltato Marmocchio, una specie di Pinocchio di marmo. Radiodramma per gli infanti di tutte le età. Dedicato a Carlo Monni. Testo Giovanni Guerrieri. Regia Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo, con la collaborazione di Giulia Solano. Fonica Federico Polacci. Personaggi e interpreti in ordine di entrata. Narratore Giulia Solano. Geppetto, Gabriele Carli. Marmocchio, Giulia Gallo. Grillo, Carlo Ipata. Primo assassino, Giulia Solano. Secondo assassino, Daniele Tarini. Mangiafochino, Enzo Iliano. Volpe, Giovanni Guerrieri. Gatto, Federico Polacci. Madre Natura, Giulia Solano. Produzione I Sacchi di Sabbia, Sant'Arcangelo Festival 2013, Rai Radio 3, Piccola Radio, con la collaborazione di Punto Radio Cascina ed Evocava, con il sostegno della Regione Toscana.